stato. Per pietà, soccorretemi. Mio bene, fate coraggio. Oh, regio di sì nero delitto, capace un cavaliere a di scoprire il vero, ogni mezzo si cerchi. Io senti in petto e disposo ed amico il dovere che mi parla disingannarla voglio o vendicarla. Per sempre abbandonar questo bel matto, eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene. Oh, leporello mio, va tutto bene. Don Giovannino mio, va tutto male. Come va tutto male? E vado a casa con mordinastro con tutta quella gente. Bravo! A forza di chiacchiere, di vezzi, di bugie, comperatesi bene a star con voi, cerco di intrattenerli. Bravo! Dico mille cose, ma siete per placarla e traggli dal pensiero la gelosia. Bravo, incoscienza mia! Faccio che bevano, e gli uomini e le donne sono già mezzo ubriachi, altri cantano, altri scherzano, altri seguita per in sul più bello. Chi credete che capiti? Zerlina! Bravo, i colleghi, viene! Donnellina! Bravo! E disse di voi? Tutto quel mai che in bocca le venia! Bravo, bravo, in coscienza mia! E tu cosa facesti? Tacqui! Ed ella? Seguita anche dar! E tu? Quando mi parve che ci fosse sfocato, dolcemente fuori dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiavi io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai! Bravo, bravo, arci! Sì, bravo! Da farlo un po' dar meglio, incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste contadinotte, le voglio divertir finché vi è notte. Vengono al vino, calda la testa, una gran festa devi preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, tengo per quella cerca menar, tengo per quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza un ordine, la danza sia, il minuetto, chi la follia, chi la ne manda, fuori ballar. Il minuetto fuori ballar, chi la follia, fuori ballar, chi la ne manda, fuori ballar. Vedi frattanto dall'altro canto, con questa quella, favoreggiar, favoreggiar, favoreggiar. Alla mia lista, don Mattina, una decina devi aumentar. Alla mia lista, una decina devi aumentar. Se trovi in piazza, qualche ragazza, tengo quella, cerco alla mia lista, dopo mattina, una decina devi aumentar. Senza alcun ordine, la danza sia, il minuetto, chi la follia, chi la ne manda, fuori ballà. Alla mia lista, dopo mattina, una decina devi aumentar. Una decina devi aumentar, una decina devi aumentar, devi aumentar, devi aumentar, devi, devi aumentar. Mi toccare. Perché? Perché mi chiedi, perfida, il tatto sopportato frei ed una mano infedele. Oh no, taci crudele, io non merito da te tal trattamento. Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star solo con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, por in fronte a Milano d'onor questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei... Ma se colpa io non ho, ma se da lui ingannata rimasi, e poi che temi, tranquilla di mia vita, non mi toccò la porta delle dita, non me lo gridi, ingrato, vieni qui, sfugati, ammazzami, fa tutto di me quel che ti piace. Ma poi, masetto mio, ma poi fa pace. Batti, batti, oh bel masetto, lo tuo povero terlino, starò qui con l'agnellino e tue bottiglie aspetta. Batti, batti, ma tuo terlino, starò qui. Sabrò maggiore, motivo per l'assetto, la tua povera cervina. Starò qui con Montielina, le tue porte io do scappo. Questa strega se durmi, siamo pure i deboli di testa. Io avrei provato tutto e graffetta. Oh, masetto, masetto, udi la voce del nostro cavaliere. E ben che c'è? Però... Lascia che venga. Oh, se vi fosse un buco da udir. Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, pinconcella, hai timor che io comprenda come tra voi passate la faccenda. Presto, presto, pria che venga, ormi mo da qualche lato. C'è una nicchia, dicerato, cheto, cheto, mi mostra. Senti, senti, dove vai? Ah, no, da scondere, masetto, se ti trova, poveretto. Tu non sai quel che può far, poveretto, tu non sai quel che può far. Faccia dita quel che vuole. Annuncio quante parole. Parla forte, vita resta. E capriccia nella testa. Parla forte, vita resta. Quelli grado, se mi fedele, mi guardi, oggi volo, precepito, se me fedele, oggi volo, precepito, se me fedele, di qual modo andrò, quelli grado, di qual modo andrò, oggi volo, precepito. Grandi peschi, poco, poco. lasciatemi andar via. Non arresta, gioia mia. Si pietà di avete in cuore. Sì, ben mia, son tutto amore. Vieni a poco in questo poco fortunata io ti mo far. Così vi disposto mio sovrano che ti mo far. Ma so venio, so venio, so Masetto, sì, Masetto, è chiuso là perché la bella tua zerbina non può la poverina più star senza di te, non può più star senza di te. Capisco, sì. Adesso fate cuore, fate cuore. Il sonato gli udite, venite ormai con me. Sì, sì, facciamo cuore. Sì, sì, facciamo cuore. E la taglia, taglia, veniamo mai con me. Andiamo, andiamo, con di me. Andiamo, andiamo, con di me. Andiamo, con di me. Bisogna aver coraggio, un cane amici miei, i suoi nascondiri scoprir, scoprir potremo allora. L'amica dice bene, coraggio aver conviene, di scacciavita via la fane di su quelle prova farà da